want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Sì, siamo operativi qui da Firenze, in diretta per voi da Pitti Uomo. Abbiamo visto sfilare umanità molto particolare in queste giornate qui a Pitti. Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo, sempre in compagnia della meravigliosa cantora brasileira Barbara Casini. Bentornata Barbara. Grazie, bentrovati tutti voi e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. E se prima eravamo in due a parlare di musica brasiliana, di arte e talento, adesso siamo diventati in tre perché voglio presentarvi un mio amico. Non ama essere definito un artista, cara Barbara, per quanto comunque ha delle idee geniali e ce ne parlerà. Io vorrei presentarlo come un creativo di fama internazionale, visto che la sua genialità viene richiesta da alcuni dei brand più importanti, non solo per quel che riguarda la moda, ma da aziende che chiedono il suo operato, non so, magari per lanciare nuovi prodotti, per rilanciare un marchio. Fatto sta che questo signore si chiama Felice Limosani. Io sono felicissimo di incontrarlo qui al Soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio, Felice. Buon pomeriggio a tutti, grazie Gegé, e un bacio da Firenze. E un bacio da, la porti un bacione a Firenze, da Firenze. Allora, pensa Barbara che Felice ha vinto l'anno scorso, organizzando la Notte Bianca di Firenze, un premio importantissimo che si chiama BEA, The Best Event Award 2013, che è stato consegnato a Felice e alla città di Firenze, certo, tutta, per aver organizzato questo evento spettacolare, e poi ne parleremo con lui. Ma parliamo di musica, parliamo della musica brasiliana. Abbiamo iniziato ieri un excursus fra i grandi interpreti del genere, e sicuramente uno dei dischi più importanti per la diffusione della musica brasiliana da sempre, dall'inizio degli anni 60, è Getz e Gilberto, che è un long seller, cioè un disco che continua a vendere copie anche in versione MP3, ma è sempre lì, nelle classifiche, sempre presente. Allora, che cosa sai di questa produzione, visto che hai incontrato per scrivere il libro molti compositori? A parte che è stato la mia Bibbia personale, nel senso che è stata la mia folgorazione da ragazzina, e da cui è cominciato tutto, quindi questo già per me è stato importantissimo. È un disco realizzato in una situazione intricata. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Miuscia, che è la ex moglie di João Gilberto, la seconda ex-moglie. Esatto, e che mi ha raccontato di aver incontrato João Gilberto a Parigi e di essersene innamorata pazzamente, tanto da trasferirsi rapidamente a New York, laddove João era sposato con Astrud e stava iniziando a lavorare con Stan Getz. Poi cosa è successo? Stan Getz, diciamo che ha concupito la moglie di João. Del resto João aveva concupito anche la buona Miuscia. Poi è stato questo disco è stato inciso finalmente fra molte tensioni incrociate. È stato tenuto un po' fermo dalla casa discografica, che e poi quando finalmente è stato lanciato è stato un successo mondiale e ha spalancato, diciamo, le porte della musica brasiliana nel mondo, e della bossa nova in particolare, chiaramente, che in quel momento stava nascendo e si stava sviluppando, perché poi tutti i brani presenti in questo album eccellente sono stati scritti da Antonio Carlos Jobim, che di lì a poco diventa uno dei compositori di riferimento. Certamente. Ricordiamo l'apprezzamento di Frank Sinatra, no? Per lui, è presente anche nel disco la voce proprio della prima moglie di João Gilberto, Astrud Gilberto, che era lì per caso per fare quasi da traduttrice. Bellissima donna, non una cantante vera, canticchiava, però poi ha fatto scuola anche quel tipo di approccio nel momento giusto. Vorrei fare una battutaccia: Astrud prese due piccioni con una fava, una cosa del genere. Successo e stanchezza. Allora qui non c'è Astrud Gilberto, ma la voce e il sound e il balanço inimitabile di João con Stan Getz in So Danso Samba. Thank you. la magia senza tempo di questo disco bellissimo, Goetz e Gilberto, il sax tenore di Stan Goetz con João Gilberto in Sodanzo Samba qui al Soundcheck di Radio 24 in diretta da Firenze in queste giornate di Pitti Uomo. Ospiti con me Barbara Casini e Felice Limosani, quindi torniamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Soundcheck, il suono della musica. Classe di Barbara Casini qui al Soundcheck di Radio 24, una interpretazione, guarda, mi fa impazzire questa tua versione. Grazie. Barbara, che sarà un capolavoro di Chico Buarque e Giollanda per la voce di Barbara Casini. Chi erano i tuoi partner in questa registrazione? Erano Sandro Gibellini, chitarra diciamo solista, Beppe Fornaroli, chitarra a sette corde di accompagnamento. Complimenti a tutti, sì. una produzione meravigliosa, più brasiliana tu di certi brasiliani. Wow. Guarda. Allora, nostro ospite con Barbara Casini e anche Felice Limosani, ho letto molte cose su di te, Felice, in questi giorni, e c'è una cosa che ha scritto un giornalista sul tuo lavoro. Questo giornalista, Barbara, ha detto a Felice, Limosani, io non ho ancora capito bene lei che cosa faccia nella vita, però tutto quello che fa lo fa benissimo. Allora, visto che oggi parliamo anche di creatività, raccontaci il tuo lavoro. Non ti piace essere definito un artista, ma tutti richiedono il tuo genio. Fortunatamente, ma intanto partirei da Barbara, perché sì, la creatività dell'anima, la creatività del talento, la creatività dell'impegno sono questioni fondamentali che non hanno molto a che fare con il genio e la sregolatezza, che non hanno a che fare con il direttore artistico, il designer. Cioè, mi piacerebbe un attimino scendere a terra e parlare di persone, perché di questo si tratta. Io penso che un creativo è anche chi, tornando a casa, apre un frigorifero e si comincia a chiedere cosa faccio, preparo da mangiare ai miei figli. Cioè, insomma, il processo creativo è questione che ha a che fare con gli uomini e non necessariamente con i talenti. E detto questo, grazie per l'introduzione. Sì, effettivamente ammetto che il mio lavoro è richiesto, probabilmente perché riesco sempre a trovare una chiave di lettura poetica, romantica, positiva. Che racconti qualcosa, che abbia un senso, una bellezza, un senso di speranza, ma soprattutto tanta concretezza. Ecco, tutto quello che fai e che pensi poi comunque resta. Io ho visto che alcune installazioni d'arte, che poi sono fatte di luci, ombre, musica e tutto quello che ti passa per la testa e che riesci a realizzare, poi sono inseriti anche in cataloghi di musei importanti, di arte contemporanea. Pensando che da ragazzino facevi il disc jockey e che adesso invece il tuo nome gira a livello internazionale, come ti senti? Penso. Ma senti, intanto la mia università è stata la console. Io quello che so fare l'ho imparato a mettere dei dischi. La console del DJ, la pista non perdona, i voti arrivano implacabili. Certo, se sbagli il disco è finita, quindi direi che quella è stata una grande scuola, ma anche di vita, se vuoi, perché osservare la gente che si muove comunque è qualcosa che ha a che fare con il sentimento e il presentimento di ciò che accade, di ciò che accadrà, perché in fondo mentre gli altri ballavano io stavo già ascoltando il brano che avrei suonato dopo e che avrebbero ballato gli altri. E quindi quanto ti ha aiutato il fatto di aver lavorato come disc jockey in mezzo Europa, in giro per l'Italia, per quello che fai oggi? Mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha insegnato a osservare le persone, mi ha insegnato anche a essere umile, perché quando sei dietro la console devi assolutamente spogliarti del... non assolutamente, diciamo che ci vuole un giusto equilibrio da quello che consideri bello di qualità e da quello che in quel momento il pubblico, la gente che balla ti richiede. Cerchiamo di essere concreti. Okay. Che cosa fa Felice Limosani? Vogliamo raccontare, perché per ora... Certo. Adesso abbiamo detto, sei stato direttore artistico della Notte Bianca di Firenze, hai vinto questo premio prestigioso, uno degli eventi più importanti, tra l'altro un evento che rispetto a altri fatti in giro per l'Europa aveva un costo limitato, e quindi non è una cosa economica, cioè un evento no. Si crea come? Assolutamente no, intanto si crea con la competenza e con la visione. Matteo Renzi, quando mi propose di occuparmi di questo progetto, mi disse una cosa che mi colpì profondamente, mi disse: vorrei una notte bianca non per il popolo ma per le persone. E penso che questa sia una prospettiva radicalmente diversa, quindi di immaginare partendo, gli altri, quindi da questo concept, che cosa hai creato? Ho cominciato per a immaginare, intanto ho creato un tema, volare, il naso all'insù, il gabbiano Jonathan. Il gabbiano Jonathan che diceva: più vola alto il gabbiano e più vede lontano. Mi sembrava un bel messaggio e una bella metafora. Detto questo, Firenze poi mi ha regalato il resto. Poi, per quello che riguarda il mio lavoro, è assolutamente trasversale, nel senso che posso occuparmi di non tanto del lancio del prodotto, perché non sono una persona che si occupa di aspetti non commerciali della comunicazione, assolutamente no. Però emozionare, creare qualcosa che coinvolga e non convinca, è qualcosa che è assolutamente. Questo non è male, Barbara, anche per la musica, coinvolgere e non convincere. Mm-hmm. È il cacao meravigliao di Renzo è stata la pietra miliare di questo concetto. Va bene, adesso fra pochissimo sicuramente hai già iniziato a lavorare, perché sarai il curatore. Ti faccio già i complimenti, perché è un incarico complesso, difficile e prestigioso. Sarai il curatore dell'Expo Universale 2015 a Milano. Giusto o no? Ho sbagliato nel dire qualcosa? No, più che altro per rispetto degli altri colleghi. Certo. Ci sono diversi momenti di curatela. Ho curato gli Open Day, è stato il primo momento di comunicazione al mondo dell'Expo alla Triennale di Milano, e poi ne parliamo in modo più approfondito. Va bene, arriva Gao Costa qui con Santana al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Sì, di nuovo in diretta da Pitti Uomo Firenze, qui al The Bridge con Felice Limosani, nostro ospite, e la bravissima Barbara Casini, che ha appena pubblicato un libro molto interessante per tutti gli appassionati di musica, e in modo particolare gli appassionati di musica brasiliana. Un incontro con alcuni fra i più importanti compositori e musicisti brasiliani, raccolti da Barbara in Se tutto è musica, pensieri e parole dei compositori brasiliani per le edizioni Angelica. Allora, Barbara, quanto è stata importante la musica brasiliana in Italia, e perché gli italiani sono così vicini a questo mondo sonoro? Oh, che domandina! Ma è stata importante, secondo me ci sono state varie ondate, no? Per quanto riguarda la musica brasiliana. Appunto, quella che ho potuto testimoniare io di più è stata a cavallo degli anni 70 e 80. Infatti c'è stata un'esplosione. Un boom. C'erano anche molti club, molti locali, anche a Roma, ricordo, esatto. Manuia, Maona. E poi questa famosa estate romana, in cui per la prima volta si potevano vedere riuniti i nostri idoli più impensati, Gal Costa, Caetano, João, no? Che abbiamo visto tutti adoranti, con quell'episodio increscioso, no? Che insomma fece rimanere l'orchestra con un palmo di naso, vabbè. E poi la stessa Nana Caymmi, che per me era un idolo, questa cantante assolutamente sconosciuta, no? In Italia, che invece si era materializzata lì davanti a me, una cosa stupenda. Quindi diciamo che poi la cosa ha avuto fasi alterne, e io le ho vissute sulla pelle, in quanto già ai tempi io mi occupavo di questa musica, quindi ho avuto momenti di alti e bassi anche per quanto ma io direi che c'è uno zoccolo duro di appassionati e sempre più competenti. Sì, appassionati che amano la musica brasiliana e il Brasile. Tu, Felice, sei stato in Brasile qualche volta? Purtroppo no, ci sono stato con la fantasia, ascoltando però Toquinho, Vinicius de Moraes e Ornella Vanoni. Ecco, bravo, quello è un esempio di come una voce italiana, una meravigliosa interprete, incontrava a grandi livelli la musica brasiliana e la bossa nova. Sì, quel disco è stato veramente un'operazione molto riuscita. Io, ecco, devo dire che è stato proprio bello. A me ha segnato la vita personale, perché c'è la poesia di Vinicius de Moraes. Esattamente, amica, infinitamente amica, in qualche posto il tuo cuore batte per me. È qualcosa che ancora oggi veramente fa palpitare. La voce di Ornella era perfetta, per quelle cose lì, assolutamente. Perfetta. Sì, allora, invece, passando dalla voce di Ornella alla tua voce, visto che abbiamo un bellissimo strumento, oggi hai cambiato lo strumento, ieri è lo stesso. Sì, ho deciso di portare lo stesso. Benissimo. Allora, che cosa ci puoi far ascoltare? Come avevo preannunciato, mi inorgoglisco un po' di far sentire una mia composizione. Chiamiamola composizione. Oh, che meraviglia, come si intitola? Si intitola Mais un sogno. Molto bene. Come l'ombra di una nube sul mare, amore, un altro bel sogno verrà. Stenditi al mio fianco. Non hai mai pensato di andare al Festival di Sanremo? No, bella e bellissima questa canzone. Io forse è troppo bella, pensato, per il sono troppo vecchia. Ma ci ho pensato, certo. Ho mandato anche un paio di cose mie al premio Ciampi, ma non mi hanno considerato. Ecco, ma queste sono le cose che succedono agli artisti, Felice. Esatto, io consiglio in quel caso di insistere. Sì, sono io che non ho mai puntato a questi riconoscimenti. Vabbè, insomma. Ragazzi, io sono felicissimo di aver trascorso questo appuntamento con voi. Ringrazio Felice Limosani. Facciamo una cosa, Felice, noi prendiamo un altro appuntamento perché voglio parlare con te. Io devo capire meglio il tuo lavoro. Ancora non l'ho capito. Guarda, è semplicissimo, in tre parole, perché ho sfumato le linee nette, perché la comunicazione, l'arte e i linguaggi contemporanei sono cose diverse tra loro. In realtà io, da ex DJ, la mia mentalità è quella di mescolare. Ho sfumato le linee di confine. Nessuno ha scritto da qualche parte che le cose non possano assomigliarsi e stare assieme. Comunque, come diceva l'amico, non abbiamo capito bene, ma tutto Ottimo. Quello che fai lo fai benissimo. Ti voglio bene, così come voglio bene a Barbara Grazini, una grandissima artista. Grazie, lasciatemi ringraziare Margherita per l'assistenza, lasciatemi ringraziare Paolo Corleoni e Davide Ciocia per la regia. Grazie a Radio 24, grazie a tutti, grazie voi a tutti. Ci risentiamo domani dalle 15:20. Questo è il soundcheck di Radio 24. Vediamo se riusciamo a ascoltare Marco Sballe con Contrast. Qualcosa arriverà. A domani, grazie. Ciao. Soundcheck. Il suono della musica.